Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Dal 18 maggio siano le regioni a decidere in autonomia. La proposta del presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini, negozi aperti a Bolzano, il governo impugna. Intanto a Milano è polemica per i navigli sovraffollati all'ora dell'aperitivo. Il sindaco Sala, cambino comportamenti o chiuderemo. Scuole ancora senza un piano, ma l'esame orale di terza media non si farà in presenza, sarà svolto in modo telematico. Libia, attacco vicino alla sede dell'ambasciata italiana a Tripoli, vittime e feriti. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Oggi nuova riunione dell'Eurogruppo con le misure a sostegno dell'economia europea, dunque giornata importante da questo punto di vista. Per quanto riguarda la scuola c'è l'annuncio sull'esame orale di terza media che non si svolgerà in presenza ma sarà telematico. E poi nel giorno in cui l'Istat certifica che ci sono stati 25.000 morti in più nel periodo tra il 20 febbraio e il 31 di marzo e solo la metà diagnosticati con una certificazione Covid ufficiale, dunque molte più vittime di quelle fin qua stimate, ecco, nello stesso giorno a Milano è polemica per i navigli sovraffollati all'ora dell'aperitivo, mentre le regioni continuano a incalzare il governo per avere più autonomia. Regioni in ordine sparso sulle riaperture della fase 2 nonostante la conferenza di ieri con il ministro Boccia che sembrava aver aperto un dialogo. Nella notte la provincia autonoma di Bolzano ha approvato la legge che spinge sull'acceleratore. Da domani potranno riaprire tutte le attività industriali, artigianali e commerciali. Lunedì 11 maggio via libera a bar, ristoranti, parrucchieri, musei e centri giovanili. Il governo ha subito annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri sera la Puglia ha dato via libera a parrucchieri e centri estetici dal 18 maggio e la Lombardia da oggi consente tutti gli sport individuali all'aria aperta. Il ministro Boccia conferma l'intesa con le regioni sul fatto che i governatori possano decidere aperture differenziate, ma non prima del 18 maggio. Intanto a Milano scoppia la polemica per i gruppi di ragazzi filmati ieri sera sui navigli. Il sindaco Beppe Sala. Le immagini di ieri lungo i navigli sono vergognose. Milano ha bisogno di tornare a lavorare e non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, uno vicino all'altro, mettano in discussione tutto ciò. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come dicevamo, oggi nuova riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles, in videoconferenza naturalmente, sugli aiuti europei ai paesi in difficoltà. Alla vigilia la Commissione ha chiarito che il MES fornirà un fondo di aiuti fino a 240 miliardi, questo si sapeva già, ma per le spese sanitarie e senza condizioni. L'unico requisito per accedere alla linea di credito del MES, il meccanismo europeo di stabilità, sarà l'impegno degli Stati membri a usarla per le spese sanitarie dirette e indirette legate alla crisi Covid-19. Questa è la proposta della Commissione europea che arriverà oggi sul tavolo dei ministri finanziari dell'Eurogruppo. Nessuna ulteriore verifica dunque o richiesta di aggiustamento macroeconomico. Il MES, operativo da giugno con 240 miliardi, servirà per aiutare i governi a contrastare l'emergenza. L'Europa si trova di fronte alla più grave crisi economica della sua storia. Le parole del ministro degli esteri Luigi Di Maio alla conferenza annuale sullo stato dell'Unione. È necessario fare un salto di qualità, definendo una risposta strutturale da parte dell'Unione. La risposta non può che essere un grande piano per la ricostruzione. Quando terminerà la pandemia, torneranno in vigore le regole del patto di stabilità, precisa il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto il decreto maggio, quello con la mini manovra a 55 miliardi a sostegno dell'economia, è ancora in via di definizione. Sentiamo quali sono gli aggiornamenti. Ancora aperto il cantiere di L. Maggio, si lavora sul provvedimento da 55 miliardi, ma su molti punti si deve ancora trovare la quadra tra l'ipotesi di aiuti alle famiglie, del reddito d'emergenza, della riduzione dell'orario di lavoro allo stesso stipendio, norme a sostegno delle aziende. E intanto, mentre continuano le proteste delle categorie come il flash mob, organizzato da ANEC con tanto di hashtag riaccendi il cinema, stasera in contemporanea con la 65esima edizione dei premi Davide di Donatello, tra l'ipotesi spunta sul tavolo del MEF anche uno specifico fondo per ottenere rapida liquidità liquidità per il settore alberghiero, ritenuto uno di quelli che ha subito il maggior impatto a causa del virus e dunque tra i più a rischio di infiltrazioni mafiose. E in vista della predisposizione del decreto rilancio, ipotesi di ampliamento anche dello stop ai licenziamenti per 5 mesi. Sul tavolo rimane poi la proposta del presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi, indica 3 misure al governo come priorità per le imprese: pagare i debiti della PA, sbloccare i fondi per le opere pubbliche e tagliare l'IRAP. Noi abbiamo chiesto espressamente un taglio dell'IRAP, perché bisogna fare qualche cosa di urgente, veloce, semplice e che semplifichi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora senza un piano ufficiale, la scuola italiana dagli asili e scuole materne fino alle scuole superiori. Il governo però ha preso una decisione riguardo l'esame orale di terza media: non si farà in presenza, ma sarà telematico. Tutti ammessi all'unica prova orale che si terrà dal 17 giugno in aula, quindi non davanti ad un computer, sempre che le condizioni sanitarie non dovessero peggiorare. Al contrario, gli studenti di terza media non rimetteranno piede a scuola, ma affronteranno un colloquio orale online. Al consiglio di classe presenteranno un elaborato, concordato con i docenti, sul quale verranno valutati. Ma torniamo ai più grandi. Invertito, come già annunciato, il sistema dei crediti. Il percorso di studi varrà 60 punti, l'esame 40. L'anno in corso avrà un peso fino a 22 crediti. Il maturando presenterà alla commissione, tutti interni tranne il presidente, un elaborato su un argomento concordato con gli insegnanti. Le parole della ministra Lucia Azzolina all'iniziativa Parole Ostili. Non saranno gli studenti della maturità 2020 che non è stata fatta. Saranno gli studenti maturi della maturità 2020. E per chi alla maturità non è ancora arrivato, promozione anche in presenza di carenze, ma niente sei politico. Le insufficienze compariranno in pagella e dovrà recuperare nella prima parte di settembre. Resta sempre la possibilità di bocciare lo studente che avesse mostrato lacune significative già dal primo periodo scolastico. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La curva dell'epidemia di nuovo coronavirus intanto va decrescendo, è un segnale che prosegue e lo ha confermato poco fa il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. Si va verso un numero sempre più basso in tutte le regioni. Dalla settimana prossima sarà possibile, ha aggiunto Brusaferro, avere i dati relativi all'andamento dei casi nei primi giorni della fase 2. E sempre oggi l'Istat ha certificato 25.354 morti in più registrate nel periodo 20 febbraio 31 marzo di quest'anno, dei quali poco più della metà, specifica l'Istat, sono attribuibili a Covid diagnosticato. Dunque una conferma che le cifre ufficiali delle vittime purtroppo sono state fin qua sottostimate. Vediamo come sta andando invece l'epidemia, ma anche il tentativo di ritornare alla normalità a livello globale. La pandemia di Covid-19 sta scatenando uno tsunami di odio e xenofobia nel mondo, scrive su Twitter il segretario generale dell'ONU Guterres, che lancia un appello ad agire in fretta per rafforzare l'immunità delle nostre società proprio contro il virus dell'odio. Intanto sul fronte dei numeri sono sempre gli Stati Uniti a detenere il primato dei decessi per coronavirus con oltre 75.000 vittime, seguiti dal Regno Unito con oltre 30.000, dall'Italia con più di 29.900 e poi da Spagna e Francia. Qui da lunedì 11 maggio inizia la riapertura, come ha annunciato il Premier Philippe. In Gran Bretagna invece Boris Johnson frena sull'alleggerimento del lockdown e invita alla cautela. Quinta per numero di morti la Russia, con Mosca che supera la Cina. Per questo il sindaco della capitale ha prorogato il lockdown fino al 31 maggio. A New York invece si ipotizzano limiti di accesso ai parchi pubblici, incluso Central Park, per il timore di assembramenti. In netta ascesa il bilancio delle vittime da Covid-19 in America Latina, con il Brasile che si conferma il più colpito con oltre 9.000 vittime e Rio de Janeiro che si avvia verso il lockdown. Dall'OMS arriva comunque un monito: solo i paesi che hanno capacità di tracciamento dei contagi possono lentamente allentare le restrizioni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo all'estero, andiamo in Libia, dove almeno 5 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nell'attacco lanciato nella tarda serata di ieri dalle forze del generale Haftar a Tripoli, in un'area intorno alla residenza dell'ambasciatore italiano in Libia. Erano passate da poco le 23 a Tripoli quando un attacco con razzi e colpi d'artiglieria delle forze armate di Khalifa Haftar ha colpito il quartiere Zawit al-Damani. Tre esplosioni sono avvenute a un centinaio di metri una dall'altra. Sono 5 le vittime, tra le quali almeno 2 passanti. È stata centrata la sede della Corte Suprema. Nella zona si trovano anche l'ambasciata turca e la residenza dell'ambasciatore italiano. L'edificio italiano ha riportato qualche danno, qualche vetro rotto ai piani alti, ma l'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi è incolume e così tutte le persone che si trovavano nella residenza. A Tripoli sono in molti a ritenere che Haftar abbia deliberatamente ordinato colpi di avvertimento contro l'Italia, che dal 2016 sostiene il governo di accordo nazionale di Fayez Sarraji, legittimato dall'ONU. Dalla Farnesina è arrivata questa mattina una nota di condanna con la massima fermezza contro l'ennesimo attacco delle forze haftariane contro civili. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo a parlare delle conseguenze dell'emergenza coronavirus e di questa fase 2, perché una delle risorse di questo momento per gli spostamenti in città, ma anche forse per il suo rilancio definitivo in chiave turistica, è rappresentato dalla bicicletta. Rapporto oggi è di Legambiente. 55 milioni di pernottamenti, pari a oltre il 6% del totale, un giro d'affari di 4,7 miliardi di euro. Anche nel 2019 il cicloturismo in Italia ha goduto di ottima salute, con ricadute positive non solo sull'economia, ma anche sulla mobilità, l'ambiente e la valorizzazione del territorio. Settore che, secondo Legambiente e Isnart, può giocare un ruolo chiave anche in epoca di coronavirus ed essere protagonista della prossima stagione estiva. La bicicletta garantisce infatti un automatico distanziamento sociale, risponde all'esigenza di stare all'aria aperta, particolarmente sentita in questa fase, si adatta a soggiorni brevi, usa strade secondarie, attraversa borghi minori, mete meno affollate, soprattutto di prossimità. Secondo il rapporto, infatti, i cicloturisti, anche in epoca pre-Covid, tendono a muoversi nella stessa area di residenza o in quelle più limitrofe. E infine un turismo che si pratica anche nei mesi autunnali, soprattutto al sud, e che consente di dilatare la stagione turistica. Tutte le carte in regola, dunque, per rappresentare, come ha detto anche Federturismo, uno dei settori chiave per la ripresa nel turismo. E infatti, secondo il rapporto, se nel 2019 i pernottamenti di cicloturisti italiani erano 20 milioni, nel 2020 potrebbero addirittura arrivare a 26. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13 e 12 minuti, piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dalle proposte del governo per per far fronte all'assenza di manodopera in agricoltura. Mancano 300.000 braccianti, una sanatoria dei cittadini irregolari sul territorio italiano o lo sblocco dei percettori del reddito di cittadinanza. Queste sono le proposte in campo, ne parleremo con il sottosegretario al Ministero del Lavoro Francesca Puglisi. Poi, quanti italiani hanno fatto il virus? Cercheremo di dare una risposta a questo grazie ai primi esiti dei test sierologici in Emilia Romagna. 349-238-6666. A tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Polemica a Milano per i navigli affollati all'ora dell'aperitivo. Il sindaco Sala: cambino comportamenti o chiuderemo. Bolzano apre i negozi, il governo impugna. Bonaccini propone: dal 18 maggio siano le regioni a decidere. Chi va a lavorare nei campi, dalla sanatoria a degli irregolari allo sblocco dei percettori del reddito di cittadinanza? Le ipotesi del governo. Effetto giorno, ne parliamo col sottosegretario Puglisi. Scuola ancora senza un piano, l'esame orale di terza media intanto non si farà in presenza, sarà telematico. Libia, attacco vicino alla sede dell'ambasciata italiana a Tripoli, vittime e feriti. Allora, come anticipato, tra poco sarà con noi il sottosegretario al Ministero del Lavoro Francesca Puglisi per fare il punto sulla questione della mancanza di manodopera nell'agricoltura italiana. È un dato molto grosso, 350.000 persone. Ci sono due ipotesi allo studio, abbiamo già detto, e sarà interessante capire come si sta orientando il governo. Adesso però andiamo in un'altra direzione, apriamo un'altra finestra, che è un argomento forse fin qua poco trattato, riguarda l'emergenza sanitaria che si fa sentire anche a livello sociale tra le persone più in difficoltà. Parliamo di migliaia di famiglie che vivono spesso grazie agli aiuti sociali, per esempio della Caritas. Cristina Carpinelli è andata alla Caritas di Milano. Cosa succede in questa fase 2 a chi per due mesi si è trovato a sopravvivere grazie ai pacchi alimentari? Gli operatori del sociale che stanno gestendo questa grave crisi economica raccontano che il primo tentativo è non far sprofondare queste famiglie ancora più in basso. Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. Noi ci stiamo ponendo il problema di come tenere a galla queste persone non solo col pacco vivere ma anche con dei contributi a fondo perduto che possano consentire loro di pagare gli affitti, di pagare le bollette, perché sarebbe molto più grave che magari queste persone perdessero la casa. Questa praticamente è la cassa di questo emporio, funziona come la cassa di un supermercato? Esatto. Alla fine cosa fai? Non dici quanto è il conto, ma... Il punteggio che gli è rimasto. Siamo in uno degli empori solidali della Caritas, una specie di supermarket che funziona solo per chi sta facendo fatica a portare un piatto di pasta a tavola. In fila decine di persone che con poste, mascherine, sacchetti attendono di fare la spesa, un gesto che aiuta a sentirsi meglio. Siamo in cassa integrazione che non ci hanno ancora pagato. Ci hanno pagato il febbraio un acconto. Ma adesso, fino adesso, niente. Lavoravo e l'impresa ha chiuso. L'emergenza economica è spalmata a macchia di leopardo su tutto il territorio. Si parla del raddoppio delle persone in reale difficoltà. Lo si capisce stando in questo emporio alla periferia di Milano. Lo confermano le richieste dei buoni spesa ai singoli comuni che aumentano di giorno in giorno, ma anche i dati diffusi dalla Caritas che certifica il raddoppio delle persone che per la prima volta si sono rivolte ai centri d'ascolto. Si parla di quasi 40.000 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso, come anticipato, è con noi Francesca Puglisi, sottosegretaria al Ministero del Lavoro. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito a parlare della quello che sta pensando di fare il governo per quanto riguarda la mancanza di manodopera nell'agricoltura italiana. Si parla di oltre 300.000 braccianti che mancano. In passato venivano spesso, per esempio, anche da fuori Italia, dalla Romania, ma anche dal Nord Africa. Adesso questo non è possibile. Ci sono due proposte in campo, una che riguarda la possibile sanatoria di cittadini irregolari già presenti sul territorio italiano e poi l'impiego anche dei percettori del reddito di cittadinanza. Sottosegretaria Puglisi, partiamo dalla questione della sanatoria. Voi avete chiarito che c'è molta tensione all'interno del governo, però forse arriverete a una sintesi. L'obiettivo è sì tirare fuori dalla illegalità delle persone, ma anche così, diciamo, impiegarli al lavoro. Quali strumenti state pensando di utilizzare e quali sarebbero i numeri? I numeri sono quelli che sono stati già dichiarati, cioè si tratta di una regolarizzazione di cittadini extracomunitari già presenti nel nostro paese, di circa 600.000 persone, non solo da impiegare nel settore agricolo, ma ci sono tante persone che sono già all'interno delle famiglie italiane, ad esempio le colfe e badanti, che a volte sono irregolari, e dall'altro c'è anche tanto personale nel mondo dell'edilizia che sta ripartendo. E quindi questa è una delle operazioni. La mediazione trovata sarebbe un permesso di soggiorno temporaneo di tre mesi. Questo serve proprio anche per far emergere e regolarizzare tantissime persone che già vivono in Italia, ed è sicuramente più sicuro averli da regolari nel nostro paese piuttosto che da irregolari. L'altra cosa che intendiamo fare per trovare le persone da impiegare nel settore agricolo è permettere ai percettori di reddito di cittadinanza, ma anche di integrazione salariale attraverso la cassa integrazione o l'assegno ordinario, di poter aggiungere a quell'assegno che percepiscono, anche se lo vogliono, il reddito da appunto lavoro agricolo. Credo che sia un'opportunità in più di impiego e un modo per trovare tutte quelle persone che servono per affrontare la stagione agricola che sta partendo. Allora, per quanto riguarda la sanatoria, non faccio altre domande, semmai in un secondo momento, perché è un tema su cui state ancora in qualche modo discutendo, però insomma è abbastanza chiaro quello che è l'intenzione del governo. Però invece per quanto riguarda i percettori di reddito di cittadinanza, perché diciamo prevedere, come dire, una modifica rispetto a quello che era l'andamento in corso? Perché questo strumento è nato con l'accettazione, diciamo, di questo reddito di cittadinanza. Adesso credo che gli italiani che lo percepiscono siano 900.000 più o meno. Ho cercato le stime, sì, però insomma, il dato dovrebbe essere questo. Dietro accettazione di una offerta o due, alla seconda offerta di lavoro, diciamo, rifiutata, è stato detto, questo prevedono i patti firmati dalle persone per il lavoro, a fianco a questo reddito di cittadinanza, il reddito stesso dovrebbe decadere. Ma io le chiedo, c'è qualcosa che non va nel meccanismo? Non sanno i centri per l'impiego, i comuni non riescono a fare il loro lavoro, cioè portare questa domanda di lavoro che c'è nei campi, in agricoltura, alle persone interessate, 900.000? Oppure, non so, c'è scoppiata un'allergia alla terra improvvisa per cui nessuno è adatto a quel lavoro, possibile? Dunque, innanzitutto a causa dell'emergenza Covid noi avevamo sospeso la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza perché appunto pensiamo che sia rischioso recarsi, proprio per evitare di diffondere il contagio, recarsi nei centri per l'impiego e sbrigare le procedure. Per cui però si può fare una telefonata, sottosegretario, mi scusi, non per incalzarla così, però diciamo che è vero, non si può andare al centro per l'impiego, però queste persone sono già tracciate, sono già contattate, sono già tracciate, percepiscono il reddito in virtù di questo patto, allora li chiama e gli non c'è dubbio, però come appunto sta scritto nelle norme approvate dal precedente governo, il reddito di cittadinanza lo si perde dopo tre chiamate, per cui siccome abbiamo urgenza di trovare le persone che servono per il lavoro agricolo, pensiamo che sia maggiormente incentivante solo per questo settore lasciare l'intero reddito di cittadinanza, aggiungendolo, andandolo ad incrementare con il reddito agricolo. L'altra cosa pensiamo positiva sia la possibilità di integrare anche gli assegni che sono purtroppo decurtati del 20% rispetto allo stipendio percepito dai lavoratori, quindi cassa integrazione e FIS, di poter integrare quel reddito con il reddito della stagione agricola. Pensiamo che anche questo sia un modo innanzitutto per permettere alle persone di integrare il reddito familiare, ma anche di tenersi attive in questo periodo in cui appunto sono costretti a casa, anche per tenere nelle grandi aziende, anche in quelle che sono già ripartite, il necessario distanziamento. È ovvio, guardate, che il decreto di maggio conterrà ancora norme temporanee. Sì. Però mi scusi, sottosegretario, staremo a vedere il decreto di maggio, assolutamente. Però a questo punto mi sembra che ci sia, come dire, una specie di certificazione del fatto che, così come è concepito, il reddito di cittadinanza non funzioni, cioè il meccanismo ti do un reddito, però ti propongo anche un lavoro, e se non sei in grado di svolgerlo, non lo vuoi svolgere, chiaramente escludiamo gli anziani percettori di pensione di cittadinanza o le persone disabili che non possono lavorare, questo va da sé chiaramente. Però il Sole 24 Ore, se non sbaglio, a febbraio ha stimato 40.000 posti di lavoro, diciamo, che sono sbloccati all'interno del perimetro del reddito di cittadinanza, che invece riguarda quasi 900.000 persone, sono molte di più in totale quelle che lo hanno percepito almeno una volta. Non crede che ci sia bisogno di rivedere qualcosa a questo punto? Perché assolutamente sì, io sono un esponente del governo, del Partito Democratico, noi da tempo diciamo che nel reddito di cittadinanza ci sono alcune cose che non vanno, come per esempio il rapporto che c'è per il calcolo dell'assegno stesso in base al numero dei componenti della famiglia. Noi vorremmo dimezzare anche il numero degli anni di residenza, per come era peraltro nel REI. Sì, però va benissimo i criteri di contorno, però mi scusi, il punto è questo: se non funziona il meccanismo del lavoro, cade tutto. E invece sarebbe molto importante, proprio in questo momento che c'è bisogno di lavoro, farlo funzionare. Perché io, per esempio, personalmente non ho nulla contro, se no sembra che l'assegno di cittadinanza a persone che ne hanno bisogno, però a questo punto c'è bisogno di farle lavorare, facciamola lavorare, però personalmente non capisco perché sommare i due assegni, questo credo che sia difficile da capire. Se mi fa finire, le stavo per dire che la terza cosa che secondo noi è da modificare è il rapporto che c'è tra perdita dell'assegno nel momento in cui una persona trova il nuovo lavoro e appunto il reddito di cittadinanza stesso, perché se è più conveniente per me stare a casa con l'assegno piuttosto che lavorare, difficilmente accetterò il primo o il secondo lavoro che mi viene proposto, probabilmente accetterò il terzo, perché anche se più distante da casa mia. Ma crediamo che modificare in parte, non totalmente, ma in parte, il rapporto che c'è tra reddito da lavoro e reddito da cittadinanza, però io mi scusi se mi permetto, crediamo che sia un accompagnamento utile all'autonomia delle persone. Assolutamente, non metto in discussione lo strumento. Non dimentichiamo anche una cosa. Sì. Che queste persone sono i percettori di reddito di cittadinanza, questo ci dicono i dati che ci hanno consegnato i centri per l'impiego, sono persone che hanno un'età media piuttosto avanzata e che sono fuori dal mercato del lavoro talvolta anche da più di 10 anni. Assolutamente, io quindi non me la prendo con la categoria sottosegretario Puglisi, mi domando solo cosa accadrà quando ci saranno due persone che lavorano una a fianco all'altra con lo stesso stipendio, salvo che l'altro ha, come dire, un'integrazione che gli viene garantita in virtù di un assegno che aveva senso prima ma ha poco senso dopo, quando si lavora esattamente come un altro. È probabilmente una questione anche di punti di vista, di sensibilità, ma insomma io la ringrazio intanto onorevole Puglisi, grazie per essere stata con noi, buona giornata, staremo a vedere. Naturalmente la posizione del governo è piuttosto chiara, vedremo se questa cosa entrerà effettivamente nel decreto maggio. Si va verso lo sblocco di questa possibilità, cioè percepire il reddito ma anche eventualmente cumulare il reddito da lavoro agricolo. Si tratterà di vedere quanti poi accetteranno, avendo già, come dire, un sussidio, di andare a lavorare per avere un qualche cosa in più. 13.29 è il momento dell'anticipazione del reportage, che è un Euro Reportage questa settimana, che andrà in onda domani mattina alle 8.15. Covid-19, l'estate sospesa del turismo europeo di Gigi Donelli e Kevin Parcell. Partiamo dall'intervista con Magda Antonioli, vicepresidente dell'European Travel Association, che ci spiega come ci attende per questo settore del turismo un lungo periodo di transizione. Col discorso del Covid ci aspettiamo che anche la domanda cambierà, ci aspettiamo soprattutto nel breve una richiesta di spazi, di ambiente, di persone che vorranno sentirsi meglio, quindi tutto un discorso anche di sicurezza che tra, quindi si sostiene che a brevissimo termine magari la montagna piuttosto che l'ambito rurale può offrire di più una risposta a questi animi che sono un po' alla ricerca, ecco, di tranquillità, di spazio, di, anche di sicurezza. Però non dimentichiamo che comunque in una riapertura al turismo, in questo momento è bloccato, non ci sono i voli o altro, però una riapertura al turismo anche le nostre città d'arte, anzi il discorso di cavalcare questo momento come necessità di cambiare un po' la supply chain e quindi di darci un po' da fare a non cadere nei casi di overtourism come spesso siamo caduti, perché anche questo era un problema. Oggi è un sogno, voglio dire, per carità, però anche questo approfittiamone per organizzarci meglio nella ripartenza. E il turismo, quanto ci manca l'idea di poter fare qualcosa di simile a un viaggio in questo periodo. 13.30, torniamo tra poco con i primi importanti esiti dei test sierologici in Emilia Romagna. Cercheremo quindi di capire quanti sono i cittadini che hanno fatto il virus sin qua. 349-238-6666, a tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Polemica a Milano per i Navigli affollati all'ora dell'aperitivo. Il sindaco Sala: cambino comportamenti o chiuderemo. Bolzano apre i negozi e il governo impugna. Scuola ancora senza un piano, intanto l'esame orale di terza media non sarà in presenza ma telematico. L'OMS consiglia tornare alla normalità solo se si hanno misure di tracciamento e contenimento del virus. Rezza verso il Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute. Test sierologici, ecco i primi risultati in Emilia-Romagna, ne parliamo tra poco. Libia, vittime e feriti per l'attacco vicino alla sede dell'ambasciata italiana di Tripoli. Trentaquattro minuti, di nuovo ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666, molti commenti all'intervista del sottosegretario Puglisi per la questione del reddito di cittadinanza e lavoro in agricoltura. E insomma, vedo che non ha convinto l'intervista del sottosegretario, mi limito a questo, si è arrampicata sugli specchi, sconforto eccetera eccetera. Faccio due rettifiche rispetto alla puntata di ieri, invece doverose, perché in questo spazio normalmente dedicata ai commenti e ai vostri messaggi, cari ascoltatori, perché ieri intanto ho espresso il mio disappunto per la riapertura delle messe, soprattutto se affiancate alla mancata riapertura delle scuole. Un punto importante: non intendevo sminuire l'importanza per i credenti di seguire i loro riti, ritengo anzi la spiritualità un elemento importante, del resto è tutto tutelata la libertà di culto dalla Costituzione. Confermo però che un paese che nello stesso giorno riapre le messe e non riapre le scuole è un paese che sceglie evidentemente di affidarsi ai santi o allo spirito e non alla risorsa naturale di una società che sono i suoi giovani adulti. Questo lo confermo. Dopodiché, altra piccola rettifica: ieri ho detto che il DPCM sulla fase 2, 4 maggio, non specifica che si può andare in auto nelle località di mare, lago, collina, montagna a fare attività motoria, e invece mi sono sbagliato, perché le FAC del governo dicono che effettivamente si può anche prendere l'auto, il che toglie tra l'altro un po' di base solida giuridica alle ordinanze dei sindaci lecchesi di cui parlavamo ieri. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. È chiaro che il lockdown per un giovane è stato qualcosa di molto simile agli arresti domiciliari, con sofferenze anche più acute che per altri. È comprensibile quindi la voglia di riscatto, di rinascita, di riscossa e di incontro. Ma se tutto questo diventa movida, senza mascherine, con assembramenti ai banconi delle birre da asporto, come è accaduto ai Navigli di Milano, come se nulla fosse, è criminale. Perché non è ancora possibile muoversi come se non ci fossero ancora metà degli infetti solo in Lombardia, e stiamo parlando di 80.000 persone. Non ci si può muovere come se non ci fosse quella montagna di morti, ancora ieri 134, e il totale ha raggiunto 14.754 persone, sempre in Lombardia, ed è quasi la metà del totale che ormai lambisce le 30.000 unità. Giustamente il sindaco Giuseppe Sala minaccia di richiudere tutto. Ciò che fa più rabbia è il tradimento della fiducia. E se l'esito diventa l'irresponsabile assembramento all'ora dell'aperitivo, anche di pochi idioti, purtroppo crolla il patto fiduciario tra autorità e cittadinanza. E non ha senso gridare al "dove erano i vigili". Non serve la multa, serve senso civico. E forse, per dirla in un modo più crudo, serve la consapevolezza che, magari essendo asintomatici ma infettivi, si può diventare degli assassini. Killer potenziali, naturalmente colposi, ma sempre assassini. Pensateci al prossimo Cin Cin. Insomma, oggi anche Orioli è stato abbastanza corrosivo. Si può anche non essere d'accordo, ma il punto è mantenere le distanze. Si può sedersi al parco o anche sul muretto dei Navigli per alcuni minuti, anche se in realtà ci si può muovere ma non si può sostare in giro, questo è un altro discorso, però la distanza e la mascherina, questo sempre naturalmente. Adesso è con noi il professor Vittorio Sambri, che è il coordinatore dei laboratori diagnostici Covid in Emilia-Romagna. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Sambri, che è anche ordinario di microbiologia all'Università di Bologna. Noi le abbiamo fatto un po' di corte, professore, perché voi in Emilia-Romagna siete partiti abbastanza tra i primi con i test sierologici per misurare la presenza di anticorpi nelle persone e noi attendevamo questi risultati con ansia. Adesso un po' di risultati effettivamente li avete messi insieme. Sì. Quanti test avete fatto e a chi? Allora, i dati che le posso fornire sono quelli relativamente alla valutazione che è stata fatta sugli operatori sanitari, intendendo medici, infermieri, operatori sociosanitari, comunque persone che sono connesse alla cura della persona. Abbiamo fatto circa 54.000 test sierologici fino a ieri l'altro, e con un tasso di positività che è intorno al 4,6-4,7% su base regionale. Allora, un momento, fermiamoci già su questo dato. 54.000 test sono tanti. Tantissimi. E quindi è un bel dato. È soddisfatto, professor Sambri, perché siete riusciti finalmente a testare. In particolare, se ho capito bene, stiamo parlando, il perimetro è quello delle categorie sanitarie, cioè medici, infermieri, sì, sì, annessi e connessi, questo? Assolutamente. Assolutamente, è stata fatta una piccolissima parte, è un'attività che stiamo cominciando a programmare con differenti tempi nelle diverse aree della regione, anche di appartenenti alle forze dell'ordine, volontari del soccorso, vigili del fuoco, ma questa è veramente una percentuale molto piccola. Ok, allora riprendendo il filo del suo ragionamento, 5% è tanto, un po' meno, è tanto, è poco, perché... e però le faccio anche una domanda, un'altra domanda. Queste persone erano persone che stavano bene, stavano andando al lavoro, non parliamo, sì, di gente che ha fatto ufficialmente, perché ce ne sono tanti. No, okay. Questi sono esclusi, questi sono operatori sanitari sani, il che significa persone che magari possano aver avuto una sintomatologia ma assolutamente blanda, ridotta, e quindi non sono mai stati dichiarati malati. Okay. Quindi, o addirittura completamente sempre sani, che è la stragrande maggioranza. Quindi questi sono i classici pazienti asintomatici a cui tutti stiamo correndo dietro e per capire quanto ha circolato il virus. Ecco, ma è tanto o è poco questo dato sul personale sanitario e cosa le fa pensare sul resto della popolazione? Mi viene da dire che sia giusto, nel senso che la popolazione degli operatori sanitari ha avuto due fasi nel corso del momento più critico dell'epidemia. La prima fase in cui era una popolazione sicuramente estremamente esposta e poi per tutte le note carenze di PPE che avevamo era una popolazione pochissimo protetta, quindi grande esposizione, poca protezione, era un dato di fatto, cioè non è un caso che tanti colleghi medici se ne siano andati perché si sono infettati. Ecco, in Emilia Romagna c'è un dato su quanto personale sanitario, che percentuale è stato colpito? Ma io onestamente non lo conosco, quindi sì, non posso dirglielo. Nella seconda fase dell'epidemia invece era una popolazione sicuramente, sì, sempre molto esposta ma molto protetta, sì, quindi diciamo che è una popolazione su cui è difficile estrapolare un dato che si possa applicare poi alla popolazione generale. Però la cosa che mi fa stare abbastanza tranquillo su questo tipo di dato è che le differenze che esistono fra le varie aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna come percentuale di positività degli operatori che lavorano nelle singole aziende corrispondono alle differenze di prevalenza della malattia nelle singole aree. Per dire, Piacenza ha una prevalenza più alta rispetto a Ravenna, sicuramente, ma lì ci sono stati più casi, Ravenna ce ne sono stati meno, professor, quindi è una figura. Professor Sambri, questo per brutalizzare vuol dire che i test sierologici che state utilizzando funzionano, perché sono, come dire, corrispondono a quello che ci si poteva attendere, per esempio. Sì, cioè non che funzioni, non dobbiamo dimenticarci che questa è una situazione di studio epidemiologico, non è, sì, una diagnosi. Quindi no, lo scopo, certo, per, certo, cui abbiamo usato questo non è fare la diagnosi di Covid, ma è capire quanto questa cosa abbia girato. E sì, per quello dico che funziona, perché nelle zone dove c'è stato più Covid ci sono più test positivi. Funzionano, è assolutamente così, funzionano. Cioè è una strategia che ha un senso. Poi può esserci qualche altra strategia, non sto dicendo che sia l'unica, però questo ha dimostrato di avere una certa affidabilità. Cioè ci sta dando delle informazioni che sicuramente... Beh, insomma, credo sia la prima volta che uno può dire che ha fatto 54.000 persone dal punto di vista sierologico e ha dei numeri, poi potremmo discuterli, confermati, non confermati, cioè vuol dire, quello che gli ho dato io è un dato ancora molto grezzo, su cui dobbiamo lavorare tanto per essere, però è un dato macroscopico che secondo me ha una sua... valenza, insomma. Io credo che non so, il Veneto, la Lombardia sta partendo in questi giorni con i suoi test, il campionamento nazionale per fare la stessa cosa che avete fatto voi, ma su tutta la popolazione. Credo che Arcuri abbia detto partirà la settimana prossima, però c'è già stato uno slittamento, credo di sì. quindi staremo credo di sì. è comunque lo studio di sieroprevalenza, per quello che ho letto nel capitolato di gara che il dottor Arcuri aveva emesso. È uno studio che prevede 150.000 soggetti, 150.000, sì. Ma divisi per municipalità, per comuni, fasce di età, e certo. Quindi è uno studio in modo, di popolazione. Esatto, in modo che sia rappresentativo degli italiani. Il vostro, diciamo, è il più possibile per quanto riguarda le categorie di operatori sanitari. Assolutamente. Senta, così, che tipo di... Insomma, 5%, un po' meno del 5% di operatori sanitari asintomatici che a cui è stato riscontrata la presenza di anticorpi, mi sta andando via la voce, che tipo di caratteristiche ha il test che avete utilizzato voi, per esempio rispetto a quello che Arcuri farà a livello nazionale? Beh, il nostro è un approccio in due step. Noi, le ricordo, siamo partiti con questo discorso quando sostanzialmente dei test, diciamo come quello che è stato selezionato dalla Protezione Civile per lo studio di sieroprevalenza nazionale, non erano disponibili sul mercato. Quindi noi abbiamo disegnato una strategia, esatto, quando esistevano solamente i test cromatografici o quasi, cioè la grande disponibilità di test era per i test cromatografici. Che margine di errore avevano i test utilizzati da voi? In termini di sensibilità credo abbastanza poco, in termini di specificità, la specificità è il dato che mi dice quanto è probabile che io dia un risultato falsamente positivo, praticamente niente. Va bene. Quindi, professor Zambi, grazie per essere stato con noi, sicuramente ci sarà modo di aggiornarci anche con voi, perché altri test verranno fatti ancora in regione Emilia Romagna, come del resto su tutto il territorio nazionale. Piccola pausa, torniamo tra poco. Giulia Crivelli, Effetto Mondo.